siamo verso la conclusione e quindi vi do rapidamente due notizie. Ottava edizione del Festival delle Scienze di Roma si svolge all'Auditorium Parco della Musica a partire da giovedì prossimo 17 gennaio, finisce domenica 20. Il tema del festival è la felicità e almeno facciamo i festival sulla felicità, declinata attraverso varie discipline, dalle neuroscienze, biologia, sociologia, però si parlerà anche di felicità al centro delle decisioni politiche e perché no anche di tecnologia della felicità. Noi faremo qualcosa sui temi di questo festival, in particolare vi anticipo che avremo una riflessione sui sex toys, cioè sulle, come possiamo definire, sui giocattoli per attività sessuali. Non abbiamo mai parlato qui a Mebius, voi direte ma cosa c'entra con la scienza? Sì, buonanotte, ci sono un sacco di cose interessanti dal punto di vista tecnologico in questo tipo di marchingegni, c'è tutto anche un problema di autorizzazioni sanitarie, insomma ve lo descriveremo. Poi dopo, altra notizia, qualche settimana fa la Commissione Bilancio della Camera ha definitivamente bocciato la norma cosiddetta Celibui, quella che il governo aveva inserito nella legge di stabilità. Ne abbiamo parlato l'estate scorsa, vi ricordate? Era una norma per risparmiare le luci che ci sono nelle città, ma anche come conseguenza importante quella di ridurre l'inquinamento luminoso, perché nelle città sempre meno si vedono le stelle. La proposta era stata avanzata dall'associazione Celibui, però insomma era stata anche accolta dal governo, ma niente da fare, è stata bocciata questa norma. Lo so che cosa molti di voi in ascolto stanno pensando: se va avanti di questo passo, chi pagherà le bollette della luce? Quindi eccola lì che le stelle in città le vedremo, ma insomma già non siamo così pessimisti, soprattutto all'inizio dell'anno. Il tempo che ci era concesso è giunto al termine. Con questa prosa aulica vi rimandiamo a quanto vi racconteremo qui a Mebius fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.